Gli ecoreati che raccontiamo noi non sono ovviamente tutti reati di mafia, sono però quasi sempre reati legati ad attività economiche d'impresa, saldano criminalità ambientale, illegalità ambientale e criminalità economica. Questa è la composizione geografica, la distribuzione geografica dei reati. Vedete che si concentrano in larga parte, in maniera significativa, nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa. Sono reati spia, 44% di questi reati, tra Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. L'Emilia Romagna, è già stato detto, e con il 3,4% si colloca nel 2020 appunto in dodicesima posizione per quanto riguarda i reati ambientali complessivi. Però ecco, se andiamo a vedere il dato dell'Emilia Romagna, anticipo subito un primo spunto di riflessione: è vero che è in questa situazione, diciamo così, di metà classifica, ma rispetto a 1178 reati accertati da forze dell'ordine e capitanie di porto, il dato è in crescita del 48% rispetto ai dati del 2018. Quindi c'è stata una crescita degli illeciti accertati dalle forze dell'ordine in materia ambientale in Emilia Romagna, con un trend significativamente superiore anche alla media nazionale. Lo ripeto per l'ennesima volta, questo significa che c'è un'attività esercitata da forze dell'ordine, capitani dei porti, più avanti vedremo anche dall'ARPA, importante, che fa emergere fenomeni di illegalità che magari prima c'erano e non venivano monitorati, oltre a delle criticità specifiche. Il ciclo dei rifiuti è cresciuto in Emilia Romagna, siamo a 351 reati nel 2019, del 36,2%, le prime due province per numero di reati sono quelle di Forlì e Cesena e Reggio Emilia, 40 reati ognuno accertati dalle forze dell'ordine. La provincia con il maggior numero di persone denunciate è Reggio Emilia, la prima provincia invece per sequestri risulta essere quella di Rimini con 18. Ecco, accennava i dati sul ciclo del cemento, qui la crescita è stata ancora più significativa, 316 nel 2019, più 129% rispetto al 2018. Dicevo che è un dato che riscontriamo un po' a livello generale, proprio per questo significativo incremento delle attività di controllo, in particolare lungo le fasce costiere del nostro paese, sviluppato da capitani di porto in tutta Italia. Quindi non è un'eccezione il dato dell'Emilia Romagna, anche se l'incremento è significativo. Accennavo al fatto che ad agire in questo caso sono in maniera molto significativa le capitanie di porto, non solo, tant'è vero che la prima provincia per numero di illeciti accertati nel ciclo del cemento, con le caratteristiche che ho detto prima, quindi tutti i reati legati anche a normative di materia urbanistica e quant'altro, stabilimenti balneari, terreni demaniali, eccetera, è Rimini. Questo, diciamo, per dare una fotografia di quello che accade. Non ci limitiamo ad analizzare i fenomeni specifici di criminalità ambientale. Fortemente connessi sono i reati che riguardano le filiere agroalimentari nel nostro paese. Questi sono i dati sui controlli effettuati. Vedete che l'attività di controllo è aumentata, più 45% nel 2019, ma aumentano e anche i reati accertati, i sequestri, gli arresti e quant'altro. Quindi questo, diciamo, per dare conto a chi ci sta seguendo della correlazione che c'è tra l'incremento dell'attività di controllo e i fenomeni di illegalità che emergono. Ho accennato prima che sono quasi tutti reati connessi ad attività economiche e di impresa. Qui non stiamo parlando dell'illecito del singolo cittadino che getta il sacchetto di immondizia per strada, ma neppure se guardiamo ai reati contro gli animali, che tratteremo più avanti, soltanto alla violazione delle normative che regolano la caccia. Dietro ci sono spesso, ripeto, attività economiche. Il business potenziale che abbiamo stimato di queste attività illecite e criminali nel nostro paese, lo vedete, è di circa 20 miliardi di euro. Non mi soffermo sulle singole filiere, ma vedete che ovviamente impatta in maniera molto significativa il tema della gestione dei rifiuti, in particolare i rifiuti speciali, ci arriveremo più avanti, ma anche i traffici di specie protette e l'abusivismo edilizio, che soprattutto nelle regioni del sud ha un'incidenza anche dal punto di vista economico e della qualità, chiamiamola così, degli abusi commessi, molto significativa.